Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, continuiamo a parlare di telemedicina e del ruolo che può o avrebbe potuto avere, se ne parla da anni, nel contenere i contagi grazie alla possibilità di ridurre gli spostamenti per motivi sanitari, soprattutto di quei soggetti fragili come molti malati cronici che frequentano regolarmente i medici di base per essere monitorati, ciò che in molti casi potrebbe avvenire per mezzo di semplici dispositivi direttamente da casa. Ci chiediamo cosa sia realistico fare nel breve periodo e quindi in una logica emergenziale e poi nel medio periodo, dunque nei prossimi mesi, per aumentare il ricorso alla telemedicina già diffusa in altri paesi. Ne parliamo con Chiara Sgarbossa, direttrice dell'Osservatorio Tecnologia in Sanità del Politecnico di Milano. Buonasera Chiara, bentornata. Buonasera. Sì, allora diciamo che in altri paesi diversi dal nostro spesso non ci sono quelle barriere che il nostro sistema pubblico purtroppo ha in qualche modo imposto, cioè il fatto che alcune prestazioni che possono essere svolte da remoto, quindi il monitoraggio dei pazienti con strumentazione che può essere il braccialetto, se ovviamente certificato come dispositivo medico e quindi con dati affidabili, piuttosto che altre strumentazioni per misurare la pressione, la saturazione del sangue, la temperatura. In questo caso in Italia manca la tariffazione delle prestazioni svolte in telemedicina a livello nazionale, quindi ci sono alcuni esempi come la provincia autonoma di Trento o anche qualche esperienza molto isolata di riconoscimento di queste prestazioni come prestazioni svolte di persona, ma a livello nazionale manca ancora una tariffazione. E quindi questo negli ultimi anni ha un po' ostacolato il diffondersi del telemonitoraggio, della televisita, soprattutto nell'ambito pubblico. Sull'ambito privato invece, visto che i pazienti possono direttamente magari acquistare una televisita, l'ostacolo della tariffazione ovviamente è venuto meno. C'è un motivo chiaro per cui questa cosa non è avvenuta in passato? So che voi come Politecnico appunto avete insistito per tantissimo tempo. Diciamo che nell'agenda del Ministero della Salute da un po' di anni, quindi in realtà stanno facendo dei lavori per valutare effettivamente quanto una prestazione in telemedicina sia esattamente paragonabile a una prestazione di persona. Quindi ci sono dei tavoli di lavoro al Ministero e anche all'Istituto Superiore di Sanità che stanno lavorando su questo. Ovviamente non è un lavoro velocissimo, per cui purtroppo dovremo aspettare, avremmo dovuto aspettare ancora un po' di tempo. Non so se proprio a seguito di questa emergenza le cose saranno velocizzate e quindi si riesca in qualche modo a risolvere questo nodo normativo che è un po' fermo da un po' di anni. Che cosa realisticamente si può fare nell'arco di settimane per aumentare la capacità di offrire servizi sanitari a distanza? Allora, lo vediamo in realtà già da quanto è accaduto nelle ultime settimane. Facciamo un esempio, anche sull'ambito della ricetta elettronica dematerializzata, da molto tempo in realtà c'era la disponibilità di avere direttamente in farmacia, dando il proprio codice fiscale, il riconoscimento delle ricette che sono state prescritte dal medico. In realtà si doveva andare con un promemoria cartaceo nella maggior parte delle regioni che il medico stesso aveva dato al paziente, quindi in realtà il passaggio era comunque dal medico e poi in farmacia. Alla luce dell'emergenza, proprio negli ultimi giorni, nelle ultime ore in realtà, c'è stato in qualche modo un cambiamento appunto della normativa in questo senso e quindi la possibilità di inviare direttamente il numero della ricetta elettronica via SMS, via mail, via WhatsApp al paziente senza che debba andare dal medico è sicuramente qualcosa di rivoluzionario. Sicuramente a breve non sarà qualche azione dall'alto probabilmente che avverrà, ma quanto anche un cambiamento culturale che questa emergenza ha consentito di attuare. Medici e cittadini erano contrari al fatto di non vedersi reciprocamente per fare una visita. Ora, visto che è venuto a mancare questa possibilità, certo, in realtà ci siamo forse abituati a parlare con il proprio medico, a vedersi con il proprio medico tramite una video call e quindi nelle prossime settimane probabilmente vedremo un cambiamento culturale da parte di medici e pazienti, quindi una maggior propensione a utilizzare questi strumenti rispetto a prima, e questa effettivamente era una delle principali barriere al diffondersi dell'innovazione digitale in sanità. Nelle prossime settimane Quello che si potrebbe fare è sicuramente la diffusione di soluzioni magari certificate, piattaforme certificate che consentono la comunicazione medico-paziente, quindi non solo magari tramite strumenti come WhatsApp, ma anche come piattaforme che sono nate per questo scopo, che offrono ovviamente una maggiore affidabilità nella comunicazione e consentono magari anche lo scambio di altri documenti sanitari del paziente o il monitoraggio continuo del Sì, paziente. perché in Quindi. questo momento appunto si utilizza WhatsApp magari anche per mandare dei referti. Sarebbe meglio che questo tipo di documenti transitassero su delle piattaforme ad hoc che garantiscono, tra le altre cose, la certezza della privacy. Proviamo invece adesso a ragionare sul lungo periodo. Cosa dobbiamo fare finita l'emergenza? Penso che abbiamo capito da questa emergenza che il digitale avrebbe in qualche modo aiutato a ridurre gli spostamenti, quindi tutto quello che riguarda la prenotazione di visite online, il ritiro dei referti online, la telemedicina stessa, la comunicazione con il proprio medico tramite strumenti digitali, erano in realtà attività che potevamo già fare prima, ma che abbiamo visto dall'osservatorio non erano ancora diffuse in Italia. Proprio per i problemi che ti dicevo di cultura. Lo stesso fascicolo sanitario elettronico, che è lo strumento che il cittadino Cardine, potrebbe certo. utilizzare per tenere monitorata la propria situazione clinica e consentire ai medici di accedere e appunto evitare anche spostamenti, era poco utilizzato, poco conosciuto. Quindi sicuramente nei prossimi mesi occorrerà ulteriormente far presente che questi strumenti digitali sono assolutamente sia utili al paziente, al medico, ma sia anche necessari perché aumentano appunto la resilienza del sistema. E quindi se li Certo. avessimo avuti prima, probabilmente avremmo ridotto alcuni spostamenti inutili e avremmo contenuto in parte il contagio. Grazie Chiara Sgarbossa. E Grazie mille a te. allora, cari ascoltatori, anche per questa sera è tutto. L'appuntamento con Smart City torna domani. Buonasera a tutti voi.